11.05 prosegue la mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Con qualche minuto di ritardo torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo, in onda ogni martedì mattina. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Francesca. Oggi sarò da sola a tenervi compagnia su queste frequenze fino alle 12.45 circa. Vi ricordo come sempre anche i contatti per scrivere e interagire con Radio Blackout durante le trasmissioni. Per il telefono fisso potete chiamare lo 011 249 5669, per sms, cisti e quant'altro potete mandare un sms al 346 667 3263. Vi lascio ancora qualche minuto di musica prima di presentare la puntata di quest'oggi, martedì 25 marzo. Once knew a nigga whose real name was William. His primary concern was making a million, being the illest hustler that the world ever seen. He used to fuck movie stars and sniff coke in his dreams. A corrupted young mind at the age of 13. Nigga never had a father and his mom was a fiend. She put the pipe down, but for every year she was sober. Her son's heart simultaneously grew colder. He started hanging out, selling bags in the projects, checking the young chicks, looking for hit and run prospects. He was fascinated by material objects, but he understood money never bought respect. He built a reputation cause he could hustle and steal, but got locked once and didn't hesitate to squeal. So criminals he chilled with didn't think he was real. You see, me and niggas like this have never been equal. I don't project my insecurities on other people. He fiended for props like addicts with pipes and needles, and so he felt he had to prove to everyone he was evil. A feeble-minded young man with infinite potential, the product of a ghetto-bred capitalistic mental. Coincidentally dropped out of school to sell weed, dancing with the devil, smoked until his eyes would bleed. But he was sick of selling trees and gave in to his greed. Everyone trying to be trife never faced the consequences. You probably only did a month for minor offenses. Ask a nigga doing life if he had another chance. But then again, there's always the wicked that knew in advance. Dance forever with the devil on a cold cell block. But that's what happens when you rape, murder, and sell rock. Devils used to be gods, angels that fell from the top. There's no diversity because we're burning in the melting pot. So Billy started robbing niggas anything he could do. Get his respect back in the eyes of his crew. Starting fights over little shit up on the block. Stepped up to selling mothers and brothers the crack rock. Working overtime, making money for the crack spot. Hit the jackpot and wanted to move up to cocaine. Fulfilling the Scarface fantasy stuck in his brain. Tired of the block niggas treating him the same. He wanted to be major like the cutthroats and the thugs. But when he tried to step to him, niggas showed him no love. They told him any motherfucking coward can sell drugs. Any bitch nigga with a gun can bust slugs. Any nigga with a red shirt can front like a blood. Even Puffy smoked the motherfucker up in the club. But only a real thug can stab someone till they die. Standing in front of them, staring straight into their eyes. Billy realized that these men were well guarded, and they wanted to test him before business started. Suggested raping a bitch to prove he was cold-hearted. So now he had a choice between going back to his life or making money with made men. Up in the sight, his dreams about cars and ice made him agree. A hardcore nigga is all he ever wanted to be. And so he met them Friday night. Allora sfumo temporaneamente il pezzo per presentarvi brevemente gli argomenti che tratteremo nella puntata di quest'oggi. Inizieremo con un po' di rassegna stampa e aggiornamenti dalle università italiane, prima di iniziare poi con le dirette. Inizieremo prima con un approfondimento sul Job Act di Renzi per provare a fare un po' una lettura critica di questo decreto sul lavoro che è stato tanto sbandierato in queste settimane, che cerca proprio di rivolgersi ai giovani. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti torinesi, andremo a dare un po' di aggiornamenti sia dalla mobilitazione per la cavallerizza di Torino, che giovedì ha visto una partecipata assemblea a Palazzo Nuovo, che ha rilanciato su nuovi appuntamenti, quindi ci faremo raccontare un po' com'è andata, e presenteremo un po' invece anche la campagna Campus Invaders, che riguarda appunto il Campus Luigi Einaudi di Torino, che domani avrà un primo appuntamento ufficiale. Questo più o meno tutto, ovviamente il tutto accompagnato da un po' di musica. Lascio finire il pezzo, poi iniziamo con la puntata. Shirt covered her face, but she screamed and clawed. So Billy stomped on the bitch till he broke in her jaw. Them dirty bastards knew exactly what they were doing. They kicked her until they cracked her ribs and she stopped moving. Blood leaking through the cloth, she cried silently. And then they all proceeded to rape her violently. Billy was made to go first, but each of them took a turn, ripping her up and choking her until her throat burned. A broken jaw mumbled for God, but they weren't concerned. When they were done and she was lying bloody, broken and bruised, one of them niggas pulled out a brand new 22. They told him that she was a witness for what she'd gone through, and if he killed her, he was guaranteed a spot in the crew. He thought about it for a minute, she was practically dead, and so he leaned over and put the gun right to her head. I'm falling and I can't turn back. I'm falling and I can't turn back. Right before he pulled the trigger and ended a life, he thought about the cocaine with the platinum and ice, and he felt strong standing along with his new brothers. Cocked the gat to her head and pulled back the shirt cover, but what he saw made him start to cringe and stutter, cause he was staring into the eyes of his own mother. She looked back at him and cried cause he had forsaken her. She cried more painfully, and when they were raping her, his whole world stopped. He couldn't even contemplate. His corruption had successfully changed his fate, and he remembered how his mom used to come home late, working hard for nothing, cause now what was he worth? He turned away from the woman that had once given him birth, and crying out to the sky cause he was lonely and scared. But only the devil responded cause God wasn't there. And right then he knew what it was to be empty and cold, and so he jumped off the roof and died with no soul. They say death takes you to a better place, but I doubt it. After that they killed his mother and never spoke about it. And listen, cause the story that I'm telling is true, cause I was there with Billy Jacobs and I raped his mom too. And now the devil follows me everywhere that I go. In fact, I'm sure he's standing among one of you at my shows, and every street cypher listening to Little Thug's flow. He could be standing right next to you and you wouldn't know. The devil grows inside the hearts of the selfish and wicked. White, brown, yellow and black color is not restricted. You have a self-destructive destiny when you're inflicted, and you'll be one of God's children that fell from the top. There's no diversity because we're burning in the melting pot. So when the devil wants to dance with you, you better say never, because a dance with the devil might last you forever. Allora 11:14, iniziamo con questa puntata di Parole Ribelli. Lo facciamo andando a commentare un evento che si terrà tra alcune settimane all'Università di Torino nel mese di maggio, che insomma sta venendo molto pubblicizzato dall'Università di Torino, che si chiama Accunito. C'è anche un sito, tutti i riferimenti che potete trovare online. Si tratta appunto di un progetto che si inserisce in una convenzione pluriennale tra appunto l'Università di Torino e la Compagnia di San Paolo, che riguarda gli anni 2013-2015. Questo di fatto, insomma, non rappresenta niente di nuovo, perché le collaborazioni tra enti privati e università pubbliche sono ormai qualcosa di assodato già da diversi anni, in particolare negli ultimi 5 anni, da quando la mannaia dei tagli sulle università si è abbattuta ripetutamente sui nostri atenei, e quindi insomma questi enti hanno dovuto cominciare a raccogliere fondi da vari offerenti, tra cui sicuramente spicca la Compagnia di San Paolo, che non solo è la banca nel quale tutti gli studenti dell'Università di Torino versano le proprie tasse, ma che appunto contribuisce in vario modo al finanziamento dell'Università di Torino. Questo ovviamente non per bontà d'animo, è chiaro che nel momento in cui un privato decide di stanziare dei fondi, ha poi tutte le facoltà di insomma controllare il modo in cui questi fondi vengono utilizzati e di farlo ovviamente a suo favore. Questo progetto appunto di Accunito si inserisce all'interno di questa collaborazione pluriennale tra Università e Compagnia di San Paolo. È stato appunto presentato a dicembre con l'obiettivo di innovare e migliorare i processi gestionali dell'università. L'obiettivo sembra appunto un po' quello di incanalare tutte le varie inefficienze, i vari malcontenti che caratterizzano l'università attuale. Ne abbiamo parlato spesso, sia in riferimento al nuovo campus Einaudi, che presenta appunto diversi problemi, dall'orario delle biblioteche, dalla mancanza di spazi di aggregazione, ma lo stesso insomma si potrebbe dire della struttura di Palazzo Nuovo, se non di più. Appunto, l'obiettivo di questo progetto è quello di portare gli studenti a presentare dei progetti per migliorare appunto le pecche dell'università. Appunto, questo un po' per provare a normalizzare i tentativi di protesta, quelle piccole grandi lamentele da corridoio che caratterizzano l'università, ma non solo. L'obiettivo è anche quello di una vera e propria messa a lavoro degli studenti, perché se andiamo a vedere un po' quali sono i progetti, ad esempio l'idea è quella che qualcuno proponga l'apertura di una nuova aula studio, un'idea di per sé assolutamente condivisibile data la mancanza di spazi, ma che andrebbe poi a ricadere sulle spalle degli stessi studenti, che sarebbero poi costretti a gestire l'intera cosa, quindi a lavorare gratuitamente per l'Università di Torino, tenendo poi materialmente aperte questi spazi. Quindi un modo insomma per scaricare un po' i costi e evitare l'assunzione di nuovo personale, facendolo ricadere proprio sugli studenti. Ma non solo, se guardiamo un po' quali sono i progetti che vengono presentati, l'obiettivo di questo Accunito è anche quello di far fare ricerca, anche in questo caso gratuita, di sfruttare appunto il lavoro degli studenti, sempre in quell'ottica un po' di autoimprenditorialità di se stessi, di messa a lavoro del proprio lavoro cognitivo, il tutto ovviamente per rendere più competitiva l'università torinese. Sappiamo che appunto nella situazione di tagli in cui versano gli atenei italiani, l'obiettivo appunto quello di essere il più competitivi per accaparrarsi qualche briciola in più dei finanziamenti. Quindi appunto una vera e propria messa al lavoro gratuita degli studenti, che insomma gioverà più che altro appunto all'università in primis, ma soprattutto poi anche alla Compagnia di San Paolo. Sul sito del collettivo, su cuatorino.blogspot, abbiamo comunque scritto un commento molto approfondito sulla questione. Ci sarà sicuramente da riparlare nelle prossime settimane, anche in vista appunto della presentazione di questi progetti, che ovviamente per ottenere poi un finanziamento dovranno passare al vaglio di vari insomma gradini, e solo alcuni appunto riusciranno ad accaparrarsi eventualmente qualche pezzettino, ma appunto staremo un po' a vedere nelle prossime settimane. Questo insomma per andare un po' a commentare anche quello che si muove nelle nostre università. Vi lascio ancora un po' di musica, poi facciamo ancora un po' di rassegna stampa. Yeah. Harlem streets stay flooded in white powder, like those motherfuckers running away from the Twin Towers. Gunshots rock the earth like a meteor shower. Bowling for Columbine, fear giving the media power. Innocence devoured like a chicken spot snack box. Government cocaine cooked in the ghetto crack rock. Corrupt cops, false testimony at your arraignment. Check the check, constant struggle to make the payments. Working your whole life wondering where the day went. The subway stays packed like a multicultural slave ship. It's rush hour, 2:30 to 8, non-stopping. And people coming home after corporate sharecropping. And fuck flossing. Mothers are trying to feed children, but gentrification is kicking them out of their building. A generation of babies born without health care. Families homeless, thrown the fuck off the welfare. Uptown, we live in distress and hang the flag upside down. The sound of conservative politicians on television. People in the hood are blind, so they tell us to listen. They vote for us to go to war instantly, but none of their kids serving the infantry. The odds are stacked against us like a casino. Think about it, most of the army is black and Latino. And if you can't acknowledge the reality of my words, you just another stupid motherfucker out on the curb trying to escape from the ghetto with your ignorant ways. But you can't read history at an illiterate stage, and you can't raise a family on minimum wage. Why the fuck you think most of us are locked in a cage? I give niggas the truth cause they pride is indigent. You better off rich and guilty than poor and innocent. But I'm sick of feeling impotent, watching the world burn in the era of apocalypse, waiting my turn. I'm a Harlem nigga that's concerned with the future, and if you're in my way, it'd be an honor to shoot ya. A future with the evil that grows in my people, making them deceitful, cannibalistic and lethal. But I see through the mentality implanted in us, and I educate my fam about who we should trust. Homicide Harlem, Blair, what's the problem? My speech to the nation, whatever you want to call it, speech to the nation. I know the human being and fish can coexist peacefully. And America needs a military where our best and brightest are proud to serve and proud to stay. If you're a single mother with two children, which is the top. Just to get by, just to get by, just to get by. vision. Shit, and all they got is rapping to listen to. I let them know we missing you. The love is unconditional. Even when the condition is critical, when the living is miserable, your position is pivotal. I ain't bullshitting you now. Why would I lie? Just to get by, just to get by, get fly. The TV got us reaching for stars, not the ones between Venus and Mars. The ones to be reading for parts. To get breath, hands with that penis and large. Just Saturday, send a Sunday morning at the feet of the Father. They need something to rely on. We get high on all types of drugs. When all you really need is love. To get by, just to get by, just to get by, just to get by. My parents sing like John Lennon. Imagine all the people watch. We rock like Paul McCartney from now until the last Beatles drop. What? Al 346-667-3263 arriva un sms che ci segnala che su Repubblica Video è presente appunto un video che mostra le immagini di questa nave militare italiana che spara su una nave di migranti per fermare gli scafisti. Lo accennava già prima Gianluca, purtroppo non c'è stato modo di trattare la notizia all'interno della prima parte informativa, vedremo magari insomma nel GR, comunque ci sarà modo di parlarne. Allora 11:27, prima di iniziare con le dirette, ancora un breve commento su il panorama delle università italiane, perché nei giorni scorsi, la scorsa settimana, l'ANVUR, che è questa agenzia istituita da 3 anni, che ha appunto l'obiettivo di valutare e schedare i vari atenei italiani, ha reso pubblico un primo rapporto appunto sulla situazione dell'università italiana. Ai risultati di questa inchiesta è stato dedicato ampio spazio sui giornali nazionali, in particolare Repubblica ha dedicato un lungo articolo nella versione online che potete trovare appunto col titolo di Fotografia dell'Università Italiana, meno fondi e lontana dall'Europa. Appunto già il titolo ci dice che quello che l'ANVUR ha rilevato ovviamente non è nulla di nuovo, ma fotografa un po' la situazione disastrosa che i movimenti studenteschi hanno denunciato in tutti questi anni. In primo luogo appunto la questione dei tagli che si sono susseguiti prima con la riforma Gelmini, poi con la spending review durante il mandato del ministro Profumo, che hanno appunto distrutto tutti i servizi connessi all'università, e che adesso, per quanto insomma diluiti un po' nel tempo a seconda dei vari atenei, cominciano a far sentire il proprio peso. Un altro dato che emerge è il fallimento sostanziale del sistema 3+2 introdotto ormai da alcuni anni nella stragrande maggioranza delle facoltà, ora dipartimenti, che non incentiva per nulla la preparazione degli studenti nell'ottica dell'inserimento nel mercato del lavoro, ma ricade appunto invece sulle loro spalle e sul corpo docente dei precari, anche grazie appunto all'istituzione di veri e propri CDA all'interno degli atenei, che assomigliano sempre più ad aziende, che possono usufruire appunto di manodopera ricattabile e gratuita all'interno dei vari insomma stage e tirocini di cui spesso abbiamo parlato. Un altro dato che salta all'occhio è la prospettiva data dallo stesso rapporto dell'ANVUR, per cui nel 2019 saranno almeno 9.000 i docenti che perderanno la propria cattedra. Ovviamente è facile immaginare che negli anni precedenti diversi saranno gli altri. Questo ovviamente difficilmente andrà a ricadere sulle spalle di quelli più intoccabili, quindi di tutta la categoria dei baroni, ma ovviamente andrà ancora una volta a colpire la parte più ricattabile e precaria dei docenti dell'università italiana. E, insomma, questo per dare un po' una fotografia di quello che accade nel mondo dell'università, anche alla luce delle dichiarazioni della neo ministra all'istruzione Stefania Giannini, che leggendo appunto al momento della pubblicazione di questo rapporto ha invocato la necessità di nuovi investimenti da parte del governo Renzi, richiesta che ovviamente è stata immediatamente troncata dall'annuncio di Renzi stesso di 5 nuovi miliardi di tagli strutturali complessivi in arrivo, che appunto rendono sicuramente difficile la prospettiva di un rifinanziamento dell'università. Nota di colore tra l'altro su questa neo ministra, che è stata ex rettore dell'Ateneo di Perugia, all'interno del quale è stata indagata perché avrebbe dilapidato oltre 500.000 di euro in spese inutili, appunto in un labirinto un po' intricato di mancati pagamenti e non solo. Quindi questa è un po' la fotografia di questo ministro. Questo più o meno quanto, insomma, ci sembrava importante andare a commentare questo rapporto, per quanto poi l'Anvur stesso sia complice di questa dismissione dell'università, perché appunto mette gli Atenei uno contro l'altro in questa guerra competitiva per accaparrarsi qualche finanziamento, però appunto volevamo commentarlo brevemente. Io vi lascio ancora un po' di musica, poi iniziamo con la prima diretta. The real revolutionary. Bob hit the nail on the head when he fell on his deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It's too many years for liberation, colonization, enslaved the whole nation. Cecil stole that call to Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. I'm from Virginia. History is not an agreement. I guess it's bigger how you see it. Now we're wrong. Who got it right? We gotta fight. It's related to Africa. Africa's our land. The future's in our hands. Now here's a list of our demands. Reparations for what you stole. The people, the land, the diamonds, the gold. Stop the bombing us. Neo cool jungle timing us. Selling us your empty promises. The economists propagandizing what time it is. Fuck that digital shit. Back up off my nuts a little bit. And let's take it back to the futuristic. I testify as a material witness. These motherfuckers is too sadistic. If you got some melanin, you can get with this. X that. If you hear this, that's the business. Africa, the rightful land of with forefather. What's stolen and we are mighty by mama. The people we land take away the silver. They take away the war, but not the culture. You take a little thing, black man, a fight for. We want back the land that we forefather. Christopher Columbus was a rascal liar. To be quite precise, he was a freaking rapper. Soon we'll find out who is the real revolutionary. Kwame Nkrumah, Sekou Toure, Thomas Sankara, the leaders of tomorrow, the future Garvey, the future Lumumba, the future Biko, the future heroes. Let's celebrate a free Zimbabwe. We doing it our way, a national holiday. No more imperialism, not today. Fuck the IMF, fuck the World Bank, United States of Africa, not AFRICOM. You think I'm gone? I know where I'm from, the continent. I ain't claim no block, you got me bent. I meant what I said and said what I meant. Obama ain't my president. That's just white power in the black face. The signs are all around us, the writings in the way. You know this what to look for, the message will be clear. The free between the lines of innocence, from nonsense. No, we cool, but the lies, politics, propertes. Mental slavery keeps us grinding, lies block the truth. To stop collaborating, they divide us into groups. Racialism, prejudice, sexism, to name a few. Unity is just a data fight, it's a rule. Murder! Look, IMF World Bank, what it look like. In your suit, in your tie, looking crook like. Did your wife better hold a pocketbook tight? If it slips one time, then it's good night. Yeah, they know what they stole from us. Bankroll on my golden stuff. Rolls Royce looking old and plush. Damn right, I'ma hold you up. Ski mask gon' leave for you, gon' see. And you're lucky if I let your ass go free. Let you see what it's like on a cold street. And you still really wouldn't get to know me. Shed tears, say you learned enough. So earn my trust. Feel the heat, I'ma turn it up. Dollar bill, I'ma burn it up. Allora, piccolo cambio di programma nell'ordine delle dirette. Iniziamo prima con gli aggiornamenti dalla Cavallerizza, faremo più tardi l'approfondimento sul Job Act, quindi tra pochissimo avremo in diretta te appunto sulla Cavallerizza. Uh-huh. tremano le gambe a Stefano, le ganumani a Marinelli, quelli della stradale coi manganelli, spari all'autogrill e le mazzate nei tornelli, soliti in divisa con le fiamme nei cappelli, proprio quelli, imprenditore con la corda al techo, disoccupato col grilletto al petto, stato che guarda e te lo manda per due giorni in video, sono cazzate su cazzate lontane dal democidio, io decido proprio poco, stracci bottiglie e fuoco, lanciate sopra il tuo gioco, Italia umano mandante per dire poco, per ste madri con le lacrime perenni al viso, bramano giustizia per il loro figlio ucciso. Non vedo pace né amore, ma solo persecuzione a persone che torturate senza alcuna ragione, ed è per questo che odio la repressione, false accuse senza scuse, e la giustizia della mia nazione, al vostro ordine non credo, ogni divisa la rinnega, ad ogni vostro omicidio c'è un alter ego, la legge è uguale per tutte, non me lo spiego, perché spari senza cuore, non distingui più il falso dal vero. Allora, 11:41 in questo momento, abbiamo questi microfoni Tea della Cavallerizza, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere qua con noi. Ci senti? Ciao, ciao, buongiorno, grazie a voi. Ecco, un buongiorno a te, con te vorremmo un po' discutere degli aggiornamenti che ci sono stati rispetto a questa mobilitazione che va avanti ormai da alcune settimane in difesa della Cavallerizza, uno spazio storico per la città di Torino che è abbandonato da tempo, ma sulla quale insomma molti vorrebbero mettere le mani. Ci sono da tempo progetti di appalti e di svendita che si inseriscono in un quadro più generale di svendita del patrimonio pubblico torinese. Appunto, un'assemblea da diverso tempo sta cercando di opporsi a questi progetti, di immaginare invece un futuro diverso per quello spazio, che sappia restituirlo alla collettività, che sappia appunto immaginarne un uso collettivo. Quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' quello che è uscito dall'assemblea di giovedì, che appunto è stato un primo momento pubblico a Palazzo Nuovo per raccontare un po' questa mobilitazione, per immaginare assieme i prossimi passi. Grazie Francesca, hai già detto tutto praticamente. No, l'assemblea Cavallerizza 1445 si riunisce in realtà da un po' di mesi, appunto, ed è formata da cittadini che si sono presi a cuore il destino di questo luogo, che è un luogo unico, un luogo storico, un luogo protetto dall'UNESCO, e rispetto al quale il comune sembra che voglia prendere una strada che lo sottrarrà alla fruizione dei cittadini. Questo ha mobilitato un po' di persone molto varie, come estrazione, come percorsi, come età, come impegno politico, attorno a questo luogo, che è anche un po' un simbolo però secondo me di quanto in questo momento sia importante fare una riflessione su tutto ciò che è bene comune, perché non sono solo i luoghi di Torino che in questo momento sono soggetti a svendita. E secondo me è molto positiva anche la partecipazione che c'è stata giovedì scorso a questa prima assemblea pubblica, diciamo un po' di presentazione ufficiale di questo gruppo di persone che vogliono lottare per conservare aperto a tutti questo posto, e una partecipazione che è stata varia e che è stata molto propositiva. È stato anche l'incontro appunto di una serie di realtà che si stanno muovendo in questa stessa direzione, per quello che riguarda l'emergenza abitativa, per quello che riguarda i beni pubblici come l'acqua, per quello che riguarda il tentativo di progettare un'urbanistica cittadina che raccolga veramente quelle che sono le esigenze degli abitanti di una città complessa come Torino. Quindi il risultato di questa assemblea, dove si sono sentite molte voci, per noi è un risultato decisamente positivo, perché appunto ci si sente parte di qualcosa anche di più grande, di una necessità che evidentemente attraversa vari aspetti e vari mondi di Torino, e insomma a noi sembra che questo luogo possa raccogliere un po' queste varie esigenze, oltre ovviamente a portare avanti una progettualità specifica su quello che questo posto potrebbe diventare. I lavori sono aperti perché l'assemblea è aperta e tutto è in corso, ha un progetto di restituzione o riappropriazione di questo luogo per la città, si arriverà appunto insieme. Questo è l'altro aspetto un po' che caratterizza l'assemblea Cavallerizza 1445, il fatto di essere un laboratorio dove ognuno può esprimere la propria opinione e dove si ragiona anche con calma a volte, però si ragiona insieme.

R.I.P. Shawn Michaels. R.I.P. R.I.P. to everybody no longer here. Everybody we lost in the struggle. R.I.P. to the street. R.I.P. New York to Palermo. My heart go out to everybody who feel pain, you know? Interessi dall'interno, subcultura tecno, sub nel mare aperto, super giù non c'è un difetto, ciao, electropop visionario alla Super Mario, super vario più a sud del Cairo, con mille cuffie e colori dentro lo zaino, porta l'impianto super che ci superiamo, che è la ricerca del denaro tipo metano, io cerco banche per il chiamo, divario, del tipo alzate quelle mani su, sì caro, del tipo alzate quelle mani su, sì caro, sì stavo, reggendo il peso del disagio, le parole vanno in over sul messaggio, reloaded, è un nuovo viaggio, allaccio le cinture anche se dubito ti serviranno, ieri. Vogliono superare, volano superaria, quando la musica ti supera, supera, supera, supera. Vogliono superare, volano superaria, quando la musica ti supera, supera, supera, supera. Sala nei sogni, fai come faccio io. La gente mi chiede ma quanto dormi, ma quando torni, ma quanto corrono le voci, quanto veloci, quando ti togli, tu non ti eclissi, voli, tu non mi dissi, provi, io parlo d'altro, finché non la finisci, poi porto le nuvole sul palco, le hanno viste i tuoi, chi ti colpisce, mo dimmi chi è più triste, voi, chi dà fuoco ai posti, come lo butti giù davvero il locale oppure lo sposti, chiami rinforzi, fai gli autografi sui posti, i tipi fanno yeah, le ragazzine fanno grossi, le conosci, l'Italia media dei colossi con la scuola media, mentre scrivevano il banco ero già la sedia, ma la sera mi disegnavo il mondo alla mia maniera e lo mostravo a chi girava sulla schiena, le crew non esistono più, new era, è la mia banda la musica più vera, se tu sei la risposta alla domanda qual era, sei solo la risposta ad un problema che non c'è. Che non c'è, che non c'è, se tu sei la risposta alla domanda qual era, sei solo la risposta ad un problema che non c'è. Vogliono superare, volano superare, quando la musica ti supera, supera, supera, supera. Vogliono superare, volano superare, quando la musica ti supera, supera, supera, supera. Idee che se potessero forse mi ucciderebbero. Piacere il mio piacere. odiato. Collate con la gloria di un poeta laureato. E una zingara mi ha detto che sul palmo la Calabria posso stringerla nel pugno e stritolare chi la infanga o usarla, trasformando questa vibra in rabbia, aprendo quella mano, darla in faccia a tutta Italia. Faccio un quadro astratto con un foglio a quattro, chiamami Picasso e stai con me se sai tenere il passo. Se scrivo come Kafka, più scuro della Nafta, rileggo il mio alfabeto indietro dall'omega all'alfa. Su arpeggio sette note, più viaggi del peyote, sette in tutto alle strofe, you can stop the prophet. Il rap, Bobby Fischer, niente strisce, terzo dito, rappresento pace e amore. Mi contraddico e benedico, ma sul crocifisso tanto forte che pure depiscopo bestemmia Cristo. Sono un polemico, Rayman Moore, non mi basta il pareggio, rappresento Reggio, strappo il contratto in mezzo, amico ma non vostro, chiamatemi mostro, scrittura automatica o notorious nell'inchiostro, un impatto di realtà che non lascia niente indenne, una città al World Trade Center il 12 settembre, continuo la borlime, la ricerca del sublime, linee sopra rime, fitte su righe in un moleschine, sono frazioni di filosofia politica, se ho i mezzi ed anche il fine che li giustifica, fuori dal gruppo come ciò frusciante, voce di gigante che grida adelante, Calabro da un passo massimo, porta il dramma nel tuo karma, se sta sotto il pentagramma come i passi, in anticipo sui tempi, chi mi segue su sti ritmi dice yes you can, prima che domani che la chicken, cappa come karma e cefalogramma, ennesimo capitolo e palco che si infiamma, ti segna il totale di concetti e prospettive, oh, se vado oltre le opinioni soggettive, faccio 26 lettere, le tessere di un puzzle, se cerchi un risultato non puoi metterle a caso, creo il panico, se carico concetti a grosso calibro, in ogni dancehall canto war in a Babylon, e rispetto per lo Stato mi va stretto, voglio accendermi una canna con la fiamma sul berretto, e quando accendo il video e vedo Silvio sorridente, vorrei fottergli la testa solo per venirgli in mente, soggetto più discusso se sputo, fusso sul micro, più abbondante di una tipa al secondo giorno di ciclo, fanculo il ritornello, se rimo non mi resisti, pensavi a un 16, invece ho già chiuso un 60, se 60 barra nel quale ti serve il fiato, più testi e supponenza da poeta laureato. .250 siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli, come avevamo promesso in apertura di puntata andiamo a discutere un po' di Job Act, uno dei primi provvedimenti annunciati dal neo governo Renzi, che ha deciso appunto di prendere parola su questioni abbastanza centrali, da un lato appunto con il cosiddetto piano casa, quindi rispetto all'emergenza abitativa, dall'altro appunto sul tema del lavoro, in particolare rivolgendosi al mondo dei giovani, quindi insomma ci interessava provare un po' a fare il punto su questo provvedimento, anche in vista del vertice sulla disoccupazione giovanile che a quanto pare verrà spostato a Torino nel mese di luglio, quindi insomma bene attrezzarsi con qualche argomento per andare poi a contestare anche questo evento qua. Abbiamo a questi microfoni Marco, che è un dottorato di sociologia, che sta tenendo un corso di sociologia del lavoro, che innanzitutto saluto e ringrazio per aver accettato questo invito. Buongiorno. Ecco, un saluto a te, con te appunto vorremmo provare un po' a commentare il contenuto di questo Job Act a partire appunto da questo lavoro di analisi degli effetti della flessibilizzazione del lavoro che hai portato avanti. Per quel che appunto si è riuscito a capire finora di questo provvedimento del governo Renzi, sembra appunto che il nodo centrale della questione sia appunto un'ulteriore flessibilizzazione dei contratti di lavoro, innanzitutto con l'allungamento della possibilità di rinnovare i contratti a termine fino a ben 8 volte in 3 anni, ma anche con la cancellazione dell'articolo 18 per i neoassunti per i primi 3 anni, oltre che con la modifica e quindi con un vero e proprio ritorno indietro rispetto la questione dell'apprendistato, per cui viene eliminato sia l'obbligo di garantire la formazione sia quello di assumere poi a tempo determinato una percentuale di questi apprendisti. Questi sono appunto solo un po' degli elementi che emergono da questo testo, ma che appunto vanno evidentemente nella direzione di precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro. Quindi niente, ti lascerei subito la parola per presentarci un po' il lavoro che hai fatto. Sì, Riguardo al Jobs Act, quindi alla manovra che adesso il governo Renzi ha presentato, se alcuni dei punti fondamentali sono quelli che hai appena detto tu. E aggiungerei un altro elemento altrettanto importante, che è quello del riordino, della riforma dei cosiddetti ammortizzatori sociali, che evidentemente si collega anche alla ristrutturazione, alla riforma del mercato del lavoro. Chiamiamola riforma, anche se il concetto di riforma è un concetto che attualmente significa modificare i meccanismi di regolazione istituzionale del mercato del lavoro per peggiorare le condizioni di lavoro e salariali e la capacità di contrattazione dei lavoratori, mentre prima il concetto significava esattamente l'opposto, cioè un tendenziale miglioramento della condizione di lavoro dei lavoratori. E comunque, a prescindere da questo piccolo inciso, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, la riforma, come dicevi tu, sostanzialmente cancellando la causale ha reso ha liberalizzato ulteriormente l'utilizzo di queste forme contrattuali. E il lavoro a tempo determinato rientra negli studi sul tema, sulla flessibilità. Il lavoro a tempo determinato viene collocato all'interno di una dimensione specifica flessibilità, che è la flessibilità dei rapporti di lavoro, e che significa sostanzialmente ridurre le tutele al licenziamento per i lavoratori, e quindi rendere più facile per i lavoratori assumere e licenziare. Nel caso della flessibilità dei rapporti di lavoro si parla di flessibilità in entrata. Mi senti? Sì, ti sento, ti sto ascoltando. Procedi pure. Scusa che ho un problema, sento male il telefono. Ah, ok. No, noi ti sentiamo bene. Ok, perfetto. Ti dicevo, nel caso della flessibilità dei rapporti di lavoro, intesa come diffusione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la riduzione di tutela al licenziamento è ovvia, nel senso che l'impresa può in maniera del tutto discrezionale non rinnovare il contratto al momento all'approssimarsi della scadenza. C'è un'altra forma di flessibilità dei rapporti di lavoro, e cioè è possibile raggiungere una riduzione delle tutele al licenziamento in un altro modo, che è quello di ridurre le stesse tutele al licenziamento per i lavoratori a tempo indeterminato. E nella sostanza si tratta per capirci meglio, concretamente, della riforma Fornero, e cioè della sostanziale smantellamento dell'istituto della reintegra nel caso di utilizzo dell'articolo 18 in una causa di fronte a un magistrato del lavoro. Non so se questi due punti sono sufficientemente chiari. Sì, assolutamente. E quindi questo per quanto riguarda la flessibilità dei rapporti di lavoro, e quindi la riduzione delle tutele al licenziamento per i lavoratori, siano essi a tempo determinato o a tempo indeterminato nel caso della modifica dell'articolo 18 della riforma Fornero, la logica che guida queste modifiche, queste riforme del mercato del lavoro è una logica che viene sponsorizzata a livello internazionale dal Fondo Monetario Internazionale, dall'OCSE, dalla Commissione Europea ormai all'incirca dalla metà degli anni 90, ed è abbastanza, diciamo, per sintetizzare, la logica è quella di ridurre gli ostacoli, i costi e gli oneri in capo a una impresa che decide di fare a meno di licenziare un lavoratore, così da sviluppare la domanda di lavoro, nel senso che l'impresa, non avendo più questi costi e questi oneri, dovrebbe essere più propensa ad assumere, nel momento in cui sa già che, nel caso in cui si presentino cicli produttivi negativi, può facilmente fare a meno dei lavoratori, nel senso che può licenziarli. Questo dovrebbe portare a uno sviluppo, ad uno stimolo alla crescita della domanda di lavoro e quindi dell'occupazione. È interessante notare che, dal punto di vista empirico, in letteratura a livello internazionale, diversi studi, tra cui alcuni anche dell'OCSE, che come detto è uno degli sponsor di queste misure, l'evidenza empirica, dicevo, mostra chiaramente che non esiste una correlazione tra l'aumento della flessibilità e quindi una riduzione delle tutele al licenziamento ed un aumento dell'occupazione. Sì. Quindi se si cerca di flessibilizzare il lavoro, se si flessibilizza il lavoro per far aumentare l'occupazione, la ricetta non funziona. E infatti questo appunto era il punto a cui volevo arrivare, perché appunto soprattutto negli ultimi anni questa retorica del dover essere flessibili è stata propinata da governi di ogni colore, non solo appunto aumenta poi ovviamente la ricattabilità per chi viene inserito in questi circuiti, ma inoltre non funziona nemmeno per quello che dovrebbe essere l'obiettivo conclamato. Sì, esattamente. La questione fondamentale a mio parere è proprio che... tu dicevi i vari governi di centrodestra, centrosinistra, sostanzialmente diciamo che se dovessimo collocare negli ultimi decenni l'inizio di queste ristrutturazioni del mercato del lavoro, la fase, i primi a svilupparla, la flessibilità del lavoro, a diffonderla, è stato probabilmente il pacchetto Treu, quindi diciamo il centrosinistra. Sì. E poi c'è stata ovviamente la riforma del 2003, la cosiddetta legge Biagi, che è stato un ulteriore sviluppo della precarietà nel nostro paese, e poi nel tempo l'utilizzo che se ne è fatto è proprio secondo me il punto da tenere fermo, gli elementi da tenere fermi rispetto ai reali effetti della flessibilità del lavoro intesa come riduzione del licenziamento, sono due i punti fondamentali. Il primo è che, come detto, non funziona per stimolare l'occupazione, e il secondo è che invece funziona molto bene per ridurre la capacità contrattuale dei lavoratori e quindi per far crescere meno nel tempo i salari, oltre al fatto che funziona molto bene per porre i lavoratori nella contrattazione in una condizione di particolare svantaggio, per cui non solo si tratta di avere difficoltà nella contrattazione salariale, ma nell'insieme dei termini che si va a contrattare, cioè anche l'utilizzo organizzativo, come per esempio la turnazione, oppure altri aspetti diciamo della contrattazione con le imprese. Il motivo semplice, abbastanza intuitivo direi, è che nel momento in cui l'impresa può decidere autonomamente, in totale discrezione, di non rinnovare il contratto del lavoro, la contrattazione è molto più dal lato del lavoro dipendente si rende molto più complicata, e mi sembra abbastanza chiaro questo elemento. E un altro, anche questo aspetto è empiricamente rilevabile, nel senso che, come per quanto riguarda la mancata correlazione tra aumento della flessibilità e aumento dell'occupazione, c'è invece una chiara ed empiricamente osservabile correlazione tra l'aumento della flessibilità e quindi una riduzione delle protezioni all'impiego nel caso di licenziamento e una minor crescita dei salari reali. Ci sono degli studi che si sono occupati di considerare il rapporto tra le due variabili, quale tipo di relazione c'è tra le due variabili, e da questi studi è emerso come ad un aumento della flessibilità e quindi ad una riduzione delle protezioni all'impiego ha fatto seguito una minor crescita dei salari. Ok. E, non so, poi se tu vuoi possiamo entrare anche più nello specifico del Jobs Act in particolare. Sì, se hai voglia appunto di approfondire ti lascio la parola. Questo ovviamente era interessante anche perché chiaramente per chi si pone anche l'obiettivo di contrastare questi provvedimenti, di provare a organizzare un'opposizione, è chiaro che un mondo del lavoro di questo tipo, frammentato, diviso, flessibile, è anche appunto più ricattabile, più difficile che possa farsi portatore di un'opposizione, di lotte, di appunto movimenti che vanno a contrastare. Potremmo dire in qualche modo, io credo si possa dire che la flessibilità del lavoro è uno strumento molto utile dal lato delle imprese, dal punto di vista delle imprese, perché disciplina il lavoro. Esatto. Lo disciplina e lo rende anche più di conseguenza anche più economico, lo rende più economico nel senso che costa meno il lavoro. Certo. Proprio perché la continua ricattabilità dei lavoratori è un elemento fondamentale del rapporto che si instaura tra imprese e lavoratori stessi. Assolutamente, sì. E poi parlavamo prima, non so, abbiamo accennato alla questione degli ammortizzatori sociali. Sì. Se vuoi un piccolo passaggio sulla questione degli ammortizzatori sociali, che secondo me, io credo che sia molto interessante, nel senso che la questione del riordino degli ammortizzatori sociali viene presentata come, ed è tra l'altro l'impostazione seguita dall'attuale governo, è in continuità perfetta con quella che è l'impostazione seguita sempre dagli organismi di cooperazione internazionale di cui prima parlavamo, cioè l'FMI, l'OCSE. Mm-hmm. E la Commissione Europea rispetto alla flessibilità del lavoro, nel senso che la flessibilità del lavoro nell'ottica di chi ha proposto le riforme della flessibilità è andata sempre ad accompagnarsi a una specifica concezione dell'universalizzazione delle indennità di disoccupazione. Cerco di spiegarmi. Sì. Lo spot che il governo ha fatto rispetto al riordino degli ammortizzatori sociali si è tradotto a livello di diffusione del messaggio che si è voluto diffondere è stato il seguente: diamo a tutti qualcosa, mentre adesso c'è una parte dei lavoratori disoccupati che non prendono alcun tipo di indennizzo. Questo è stato l'impostazione seguita. Mm-hmm. In realtà questo tipo di impostazione nasconde un elemento molto pericoloso, che è quello che nella sostanza, se anche si dovesse seguire veramente questa strada, si darebbe a tutti molto di meno. Nel senso che l'universalizzazione delle indennità nelle fasi di disoccupazione passerebbe per la cancellazione di altre forme di indennità più sostanziose rispetto all'ammontare del sussidio percepito. Uh-huh. E quindi nella sostanza si spalmerebbe anche con un risparmio la somma totale spesa dallo Stato sotto forma di indennità di disoccupazione su una platea più ampia. Ok. E questa, la logica che guida questo tipo di impostazione è quella, anche qui ci sono dei documenti che lo provano in maniera molto chiara, secondo le istituzioni di cui abbiamo parlato prima, una delle cause della disoccupazione sono fondamentalmente rintracciabili nella rigidità delle istituzioni di regolazione del mercato del lavoro. Per dire, il mercato del lavoro è troppo rigido e quindi le imprese hanno difficoltà nell'assumere e nel licenziare, ovviamente. Questo nel caso della flessibilità dei rapporti di lavoro. Nel caso diversamente delle indennità di disoccupazione, la disoccupazione è la motivazione principale. La disoccupazione è da rintracciare nell'eccessiva generosità dei sussidi di disoccupazione. La generosità dei sussidi, un livello troppo elevato di sussidi di disoccupazione funziona da disincentivo alla ricerca attiva di un lavoro e all'accettazione anche di un lavoro nel caso in cui ci siano delle occasioni. Non so se questo punto è chiaro. Sì, sì, sì, assolutamente. Ora, e quindi qual è la soluzione secondo il Fondo Monetario, la Commissione Europea e l'OCSE? Ridurre i sussidi di disoccupazione. E c'è un famoso documento che è un po' l'apripista su questo tema, che è un job study del 1994 dell'OCSE, che rintracciava che per ridurre la disoccupazione, oltre alla flessibilità, un altro elemento che considerava fondamentale era proprio quello di ridurre i sussidi di disoccupazione, sia come tasso di rimpiazzo, che per semplificare sarebbe la quota rispetto al salario percepito come dipendente che il disoccupato percepisce come sussidio. Bisognava anche ridurre il periodo di tempo in cui il disoccupato godeva del sussidio e restringere i criteri di eleggibilità dei sussidi di disoccupazione. E nel tempo in effetti queste riforme hanno portato, diciamo, a dei risultati, se così vogliamo, nel senso che effettivamente sono state ridotti in tutti i paesi a capitalismo avanzato, sono stati ridotti i sussidi di disoccupazione. E anche qui però empiricamente è interessante notare come negli studi che sono stati sviluppati sulla relazione tra diminuzione dei sussidi di disoccupazione e aumento dell'occupazione hanno dato dei risultati tutt'altro che confortanti per chi ha sponsorizzato queste riforme, nel senso che ad una diminuzione non è possibile rilevare anche in questo caso una correlazione tra i due fenomeni, cioè non diminuire i sussidi di disoccupazione non fa aumentare l'occupazione. Mm-hmm. E io credo che il riordino degli ammortizzatori sociali che avverrà sotto il governo attuale, con il governo attuale, rientri nella logica della riduzione, anche se mascherata da universalizzazione dell'indennità, rientri nella logica della riduzione generalizzata dei sussidi di disoccupazione e sarà destinata molto probabilmente anche questa a non raggiungere l'obiettivo che in teoria si è prefisso. Ok, quindi se ho capito bene, questo annunciato sussidio di disoccupazione andrebbe poi a sostituire e cancellare tutta una serie di altre forme di sussidio, tipo la cassa integrazione, insomma, per citarne una. Sì, che poi è quella dove, diciamo, la sostanza della questione è lì, nel senso che se l'unico istituto che ha una qualche consistenza, l'unico istituto di indennizzazione che è previsto in Italia che ha una qualche consistenza è la cassa integrazione. Certo. Perché effettivamente per il resto i lavoratori italiani ricevono ben poco nel caso di si trovino in stato di disoccupazione. Sì. Va bene, Marco, se vuoi aggiungere altro, ovviamente i microfoni sono aperti. Scusami, non ti ho sentito. Dicevo, se vuoi aggiungere altro, ovviamente i microfoni sono aperti. Guarda, in realtà credo che un po' la questione sia tenere presente che la flessibilità, al di là di quella che è come viene presentata a livello istituzionale, accademico, per lo più, perché ci sono diversi studi critici e c'è chi analizza la questione in termini di rapporti conflittuali tra imprese e lavoratori, però fondamentalmente secondo me la flessibilità andrebbe interpretata sostanzialmente come uno strumento per la riduzione della capacità contrattuale e la forza contrattuale dei lavoratori e per una diminuzione sostanzialmente dei diritti dei lavoratori. Certo, no, infatti è molto interessante questo tuo lavoro, appunto un po' per attrezzarsi a smontare tutte queste retoriche, anche poi il fatto di inquadrarlo comunque in un contesto internazionale di ristrutturazione del mondo del lavoro, perché ovviamente quello che avviene qua in Italia ovviamente insomma arriva anche da più in alto, ci sono appunto dei processi più ampi di modifica in questa direzione del mondo del lavoro. Sì, diciamo che è una tendenza che per esempio, quando, non so, spesso si fa l'esempio, si parla spesso, si sentono rappresentanti del governo o a imprenditori parlare del modello tedesco come il miracolo del modello tedesco che ha ridotto la disoccupazione, che comunque non è da questo elemento non è da porre in diretta relazione con la flessibilità, ma comunque le famose riforme ARS di cui si parla dal nome di chi le ha fatte, il ministro che le ha fatte in Germania, hanno sostanzialmente drasticamente ridotto il costo del lavoro in Germania attraverso anche la flessibilità del lavoro. Quindi sono secondo me dei fenomeni che, diciamo, le linee tendenziali di sviluppo sono le stesse a livello internazionale. Poi ovviamente ogni singolo paese deve fare i conti con delle caratteristiche storiche che hanno i diversi mercati del lavoro in ogni paese. Chiaro. Va bene, io ti ringrazio molto per questo tuo contributo, sei stato molto chiaro e insomma speriamo ci sia modo nelle prossime settimane anche di approfondire ulteriormente la questione. Per ora ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Un saluto, ciao, grazie un Marco. Un saluto, ciao. Allora, questo per quanto riguarda il Job Act, appunto un contributo molto, molto interessante, molto preciso. Appunto ci sarà modo di riparlarne sicuramente nelle prossime settimane, però appunto ci premeva iniziare un po' a intavolare un discorso anche su questa vicenda qua. Nel frattempo è arrivato un messaggio che ci fa una richiesta musicale che accontento volentieri, e ne approfitto anche per salutare Andrea che è in ascolto. Periferia, senza una casa, senza una strada che potessi dire mia. Ho messo in ogni passo l'energia per lasciare un'impronta che il tempo non potrà spazzare via. La sconfitta è preziosa, per questo la custodisco. Mi ha insegnato più del padre che non ho mai visto. Più di Cristo, in mano stringo poco o niente. Le unghie nella carne fanno male, mi ricordano che esisto e ho visto di vantarsi di una vita amara. Corro verso l'orizzonte anche se so che si allontana. Uno per lo show, due per la grana, ma tre per rendere orgoglioso chi mi ama. Lo capisce, scrivere la pace non vuol dire averla. Vivere ogni giorno combattendo non è stare in guerra. Rimanere con i piedi per terra, volando fin quando questo tempo non ci afferra. Ormai imparato a stare a galla, se questa barca con la picco non mi trascinerà sul fondo insieme a chi sta fermo e chi guarda passare la sua vita che non ritornerà. L'ho detto ormai con tutte le parole che c'ho, che finché ci avrò fiato in gola continuerò. Per ogni stecca in faccia che mai dato ora so che troppo te ce vuole per mannamme K.O. Hey. Nata ai bordi di periferia come tanti, ma se ci penso bene come troppi. Mia madre che si è fatta in quattro per mandarmi avanti e farmi studiare, la fatica ce l'ha scritta dentro agli occhi. È per questo che non sono come voi e che non posso. Sprecassi tutto questo sarei stronzo, ma non lo sprecherò perché vale troppo. Per ognuno che ha creduto in me io ci credo il doppio. La lista dei miei debiti è infinita, lo so. Non basterà tutta la vita per pagarli, però ogni minuto, ogni secondo che avrò lo spenderò per rendere giustizia alle fortune che c'ho, che c'ho. Sta musica l'ho usata per dirvi quanto vi amo. In tutta la mia debolezza, sempre con il cuore in mano. Se adesso posso correre è perché so andare piano. Se adesso voglio correre è per andare lontano. Ormai imparato a stare a galla, se questa barca con la picco non mi trascinerà sul fondo insieme a chi sta fermo e chi guarda passare la sua vita che non ritornerà. L'ho detto ormai con tutte le parole che c'ho, che finché ci avrò fiato in gola continuerò. Per ogni stecca in faccia che mai dato ora so che troppo te ce vuole te mannamme K.O. Misure vanno strette come il jeans di un me- claro che posso farci in giro vestito in stracci, fotto puttane fatte d'eroina prendendole a calci. Più trash di questo dimmi tu di più, per suicidarmi farò costruire la mia bambola voodoo. Chiuso in me, sembra di starmene in galera, sarò più easy per stasera, spingo musica leggera. Kerosene, giungla beat, come viene viene bene. Gemma con le gesta di chi esplode nella flemme cherosene. E come viene, viene bene, infetto tutto, spratto su sto mondo che non tiene. Insieme alle mie droghe più pesanti, capoccioni devianti, ripensando ai miei pianti, zero contenuto, io l'ho già bevuto, rollato, appicciato, fumato e vomitato il mio vissuto. Non piace super off, ma inseguito da fantasmi come Pac-Man, sfondo woofer io, spacco Twitter io, un Rottweiler, in combattimento contro un setter chiamato rapper. Mani in faccia, da staffeccia mani in faccia, per il fighetto che pulisce la traccia, acqua di colonia che mi accerchia, sporco tutto e alzo il cane contro Silvia. E 26 ci avviamo verso la conclusione di Parole Ribelli per questa settimana. Andiamo a fare ancora una breve diretta per presentare un appuntamento di domani. Lo facciamo con Mattia, che dovremmo avere in collegamento. Ciao Mattia. Buongiorno a tutti e a tutte. Un saluto a te. Con te appunto vorremmo un po' presentare questa campagna Campus Invaders, che è stata lanciata appunto da un gruppo di studenti in queste settimane, che appunto già dal titolo rende un po' bene l'idea di quello che è l'intento, dicendo ti sento un alieno quando percorri i corridoi del campus, che è effettivamente un po' la sensazione straniante, appunto alienante, che si percepisce un po' attraversando quegli spazi. Quindi niente, ti lascio la parola per raccontarci un po' il lavoro che state facendo e poi appunto per presentare l'appuntamento di domani pomeriggio. Ok, va benissimo. Allora, sostanzialmente Campus Invaders nasce appunto da iniziativa di studenti e studentesse del campus, rispetto però alla questione dei servizi, visto che ci troviamo in un campus nuovissimo, aperto da un anno e mezzo, che appunto è stato pagato 150 milioni di euro, all'inizio ci domandavamo come in una struttura postmoderna dei servizi potessero essere così inefficienti. Quindi facciamo questa iniziale raccolta firma sulla biblioteca, chiedendo l'ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca, e abbiamo raccolto diverse firme, più di 600, e in questa raccolta firme ci siamo scontrati però con altri problemi, visto che lo studente che metteva la firma e si sentiva vicino a questa problematica, comunque sia nel confronto con noi ci diceva però è un campus che manca di spazi per gli studenti, di socialità, o semplicemente uno spazio dove prendersi un caffè dopo lezione, piuttosto che ci sono 300 telecamere, piuttosto che ci sono pochissime aule studio, cioè solo una in un'area di 45.000 metri quadri. Quindi abbiamo visto che ampliare un po' la questione sugli spazi in questo campus poteva avere un po' di acchito e un po' di curiosità in più. Proprio per questo quindi abbiamo lanciato questa campagna Campus Invaders, giocando un po' su questo immaginario. Ebbene, ora stiamo procedendo facendo banchetti in università di sensibilizzazione, laddove appunto comunichiamo questa campagna Campus Invaders, rimandando alla pagina di Facebook, e da lì appunto stiamo facendo inizialmente un po' di agitazione comunicativa a livello di grafica, dicendo non c'è un posto dove mangiare, Campus Invaders, lanciando un po' questi slogan. Nel pratico l'intenzione è quella di appunto domani, mercoledì a mezzogiorno, di lanciare questo picnic sui prati del campus, perché magari chi non sa come è fatto il campus, è un'area vastissima, parlavo prima di 48.000 metri quadri, ed è un posto appunto dove ci sono immensi prati e non si può camminare sui prati, e ci sono tutti questi piccoli vincoli messi sotto forma di sicurezza. Quindi domani oseremo appunto, lanciando questa invasione appunto dei prati, per fare questo picnic. E adesso appunto stiamo al campo, stiamo volantinando, e dobbiamo dire che i risultati fino ad ora sono positivi, per quanto riguarda la pagina Facebook e per i livelli di attivazione che si stanno creando, seppur minimi, però siamo all'inizio e sembra che la strada appunto sia quella giusta. Rimando anche all'appuntamento di oggi pomeriggio alle 14:30, assemblea appunto di Campus Invaders. Va bene Mattia, credo che tu abbia detto tutto, quindi rilanciamo anche noi gli appuntamenti che hai ricordato, e a risentirci nelle prossime settimane con nuovi aggiornamenti sull'invasione. Ok, grazie a tutti e a tutte, buona giornata. Buona giornata a te, ciao. Ciao. Allora, questo quanto per quanto riguarda il campus, vi lascio ancora un po' di musica, poi andiamo a ricordare qualche appuntamento prima di concludere la puntata. Sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione resta al centro dell'arena. Sesta musica emazione su un'altra sirena. Qua quarantena contro ogni revisione. Pronto sia la soluzione che allo sconto di pena. La punizione è estrema. Negate il diritto, lo schema è prima piegarti, poi farti rigare dritto. Siccome sei il problema, devi restare zitto, abituarti a sta catena che ti ha appena sconfitto. Perché il sistema che ti ha inflitto sta ferita in testa. Mi basta una via d'uscita, questa è la mia vita. Ho scritto il necrologio, fine della partita, ed ho trafitto l'orologio. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire. Giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire. Per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale. Tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire. Giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire. Per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale. La paura un'armatura di cartone. Prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione. Il vento le sbarre alle finestre, una canzone che sento. Ogni momento parla di rassegnazione. L'illusione si alimenta i tuoi valori. Quando il mondo è una cella, isolamente fuori. La folla di impostori, aspetti i riflettori. Controlla, chi controlla i controllori. Viaggi interiori, un astello oltre il confine. La corona d'allori accanto a quella di spine. La iena che deprime a priori. L'attitudine, la fine. Cena gli errori, la solitudine che ignori. Davanti a mille spettatori, conserva la gratitudine. Tempi migliori, questioni. Allora, in chiusura, qualche appuntamento per i prossimi giorni. Partiamo da questa sera alle 20:30 all'asilo occupato, cena benefit detenuti, appuntamento quindi in via Alessandria 12, mentre alle 21 al Mezcal Squat di Collegno, riunione di Notav Torino e Cintura. Giovedì 27, sempre la sera alle ore 21, in corso Palermo, assemblea dibattito dalle lotte operaie alla Valsusa. Venerdì 28, nella sedia di Radio Blackout di Via Cecchi 21 / A, presentazione con l'autore del libro Dove sono i nostri, classe lavoro e movimenti nell'Italia della crisi, redatto e scritto dal collettivo di inchiesta Clash City Workers. 20.000 elmetti, solo 20.000 elmetti. 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, 20.000 e mezzi. Arriviamo a sabato, prima di concludere, giornata ricca di appuntamenti. Dalle ore 11 la mattina al Balloon, frittura mista senza paura, benefit, spese legali per il maxi processo Notav. Incisa con il cerchio e con il fulmine, marcato dagli impicci, allergico ai feticci, tanti bei discorsi e poi si vendono per due spicci, fatti non capisce. Mentre alle ore 15, appuntamento importantissimo per il corteo regionale per il diritto alla casa, l'appuntamento sarà alle ore 15 in Corso Marconi all'angolo con via Madama Cristina, per terminare poi sotto il Palazzo della Regione. La teppa, V4 Vendetta, un simbolo che infetta, segnali discontinui in questa trappola perfetta, saetta d'energia umana, fuori dalla tana con il coprifuoco, sei un player, allora fai il buon gioco. Mentre per quanto riguarda la sera, alle 20.30 al centro sociale a Scattasuna di Corso Regina 47, cena benefit per la settimana di solidarietà con il popolo basco. Ricco menù appunto con specialità tipiche basche, cercate l'evento su Facebook dove troverete anche il numero per prenotare. Solo 20.000 e mezzi, 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi. Il giorno sarà quasi in quarantena, troppi a farsi troppo a darci dentro con il cocco, troppi a farsi brutti sopra il gioco, all'occhio, è un secolo di insidie, un dedalo di invidie, tu ricorda che il più infame ti sorride, resto sul chi vive, difendo la contrada, so bene quanto valgono il rispetto della strada, là fuori è Torquemada, siamo tutti di passaggio, ricorda che il problema è l'atterraggio, la pena è il contrappasso, l'ipoteca sul domani, dall'alto verso il basso, contro tutti e 30 ai piani, con gli ultimi moicani, lontano dagli scami. Signor K con le combo sul tatami, con i ragazzi cattivi che fanno a botte con i congiuntivi, che nella merda stanno a galla come mezzi anfibi. No signore, schiaccio sul motore l'acceleratore, toro loco con impatti cuore. 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, noi divisi in grande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, 20.000 e mezzi, solo 20.000 e mezzi, il giorno sarà quasi contro parte di venti. 12.37, allora anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo sempre dalle 10.45 alle 12.45. Io vi invito a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout, tra pochissimi minuti in onda il GR, a seguire Cattivi Pensieri. Un buon proseguimento di giornata e buon ascolto da Francesca.